La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Arriva un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, questa mattina ho ascoltato per caso la tua trasmissione su Radio 24. Ero in giro su di un sentiero di montagna, tra l'Emilia e la Toscana, e mentre cercavo un po' di musica che mi aiutasse a scordare la fatica, il caldo e quella maledetta salita piena di sassi, ho sentito nominare il faro di Finisterre. Visto che stavo girando con la maglietta che ho preso l'anno scorso alla fine del Cammino di Santiago, ho pensato, sentiamo un poco che cosa dicono. Mi ha stupito la comprensione, la pietas che hai dimostrato nei confronti di quel marito descritto come una nullità da una moglie che pensa di aver sposato un autistico dei sentimenti. E qui siamo al motivo vero per cui ti scrivo. Quel marito sono io. Non proprio lui in persona, almeno non credo. Ma sono in quella situazione e lo sono anche perché non ho saputo mostrare quello che provavo. Dopo 25 anni di matrimonio, due figli ormai grandi e una vita troppo concentrata sul lavoro, mi trovo a dovermene andare di casa o, detto in altri termini, a togliere il sedere dall'impronta che ha fatto sul divano. Devo riprogrammare il mio futuro senza mia moglie. Non diventeremo vecchi insieme, nipoti a Natale al mio pranzo e alla vigilia alla sua cena. E cose di questo tipo. Ma la cosa più urgente è cercare di ripopolare il deserto che, mi accorgo solo adesso, era cresciuto intorno a me e all'oasi del mio matrimonio che devo abbandonare. Questa lettera è, per me, una bottiglia con un messaggio lanciata nel mare. Grazie. Francesco. PS. Sulla pagina Facebook c'è scritto... Dal faro Barbara risponde a chi abbia afflizioni amorose, sentimentali, esistenziali. Anche se è vero, non è bello sentirsi iscritti da non so chi alla categoria posta del cuore, consiglierei di cambiare la frase. Ho raccolto la tua bottiglia, Francesco, e grazie di averci dato la visione di ciò che è la radio, della sua comunicazione ariosa. La radio è questa cosa antica che non finirà mai come la bicicletta. Stai camminando su un sentiero di montagna, mattina presto e ci incontriamo. E ti riconosci in quello che stiamo dicendo. Senti, io non ti voglio consolare dello strappo e del dolore di quella lunga incomprensione con tua moglie e neanche di avere perduto i tuoi punti fermi. Però le due parole chiave della tua lettera sono ripopolare il deserto, ovvero un'altra vita, perché per quanto tremendo ogni cambiamento è una rinascita. Distinguiamo i luoghi comuni, questo lo è, ma da una verità semplice, ecco. Hai l'occasione di scoprirti a te stesso. È un lavoraccio, eh? Però, se lo fai bene, dà certe soddisfazioni. Perché cadranno le protezioni, ma cadranno anche i compromessi. Pensa soltanto, non ti penserai più in coppia. Sarai costretto a riprendere i tuoi contorni di individuo. Sarai costretto a tirare fuori il Francesco che per troppi anni hai nascosto a tua moglie perché lo nascondevi anche a te stesso. Oh, circa la tua osservazione su quanto abbiamo scritto su Facebook, sì, hai ragione. Adesso ci correggiamo e cambieremo la frase. Come scritto, sa un po' di caso clinico. E credimi, è contro ogni nostra credenza, sia mia che di Gloria Guerrera, che è la garbata autorità morale del faro. E quindi abbiamo sbagliato. E da oggi scriviamo così. Pronto soccorso, chiaramente, eh? Pronto soccorso amoroso. Mettiamo l'insegna. Ti devi immaginare una di quelle insegne di ferro sulle botteghe di un secolo fa che piacevano tanto al giovane Majakowski, con sopra dipinto a vivi colori il simbolo dell'arte, le forbicioni per il barbiere, il maiale per il norcino, i denti per il dentista. E sulla nostra cosa ci mettiamo? Ma immagina un cuore ricucito alla meno peggio, che sta malissimo lo stesso. E sulla vetrina? Aggiustiamo cuori, orgogli, errori, rattoppiamo dignità offese, favoriamo le lacrime, colpi di testa, lucidiamo corna, diamo consigli inutili. vi teniamo compagnia quando non ne potete più. Insomma, rispondiamo alle lettere degli amanti. Non ne sappiamo niente, come voi, ma stiamo dalla parte giusta. Stiamo sempre dalla parte di chi desidera. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Ciao Barbara, sono in ufficio per non andare a casa. Sono innamorata persa di un uomo che secondo me non mi considera. Secondo lui sono molto importante. Di fatto, quando ho bisogno di un abbraccio non c'è mai. C'è solo quando vuole lui. È più grande di me. Io 50, lui 60. È sposato, come me. È brutto e anche un po' puzzolentino, ma mi fa impazzire. Aspetto come un adolescente i messaggi e la felicità dura una frazione di secondo, solo il tempo che intercorre tra quando sento il suono del messaggio e quando lo leggo. Vorrei stare sempre con lui attaccata e abbracciata. Ti sembrerò una stupida, una che è andata a cercarsela, ma adesso sto tanto male. Senti, mi ha fatto ridere questa descrizione dell'uomo che sta in cima ai tuoi sogni. E mi ha intenerita anche, e conferma la mia idea che noi donne, spesso i maschi, manco li vediamo, ce li inventiamo. Io l'ho detto, lo so, mi ripeto volentieri, perché è uno dei dati più divertenti e in fondo anche più edificanti della mia osservazione della realtà. Ovvero che la storia del principe Rospo, che poi la principessa lo bacia e lui diventa un principe, è vera fino al bacio. Ovvero lei lo bacia, ma lui non è che si trasforma, rimane il Rospo di prima, solo che lei lo vede principe. E ho detto, anche questa è una ripetizione, ma ci tengo. E non c'è uomo così esasperante, così poco affascinante, che non trovi una donna pronta a ridisegnarselo. Perché noi ci raccattiamo proprio tutti. La tua descrizione non sembra la descrizione di un'innamorata, perché è spietata come una foto segnaletica. Ma poi chissà alla fine cosa ti sembra, questo sessantenne sposato come te. Anche la tua lettera ci conferma che il matrimonio è soltanto una grande corsa a flirtare con chiunque, purché non sia la persona che abbiamo sposato, con la quale abbiamo scelto di dividere tutti i santi giorni della nostra vita. Non è un rimprovero. Tu sei capace di trasfigurazione. Ti salverai sempre. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho 22 anni. In luglio ho fatto amicizia con una ragazza che sta a Cosenza, io a Prato. Non è facile vederci, così le nostre comunicazioni sono affidate alle mail. Io le scrivo ogni volta che la penso, cioè spesso. Ma lei quasi mai mi risponde, o lo fa con tanti di quei giorni di ritardo, quando ormai credo che mi abbia cancellato. Eppure se sono lettere affettuose, mi sento distrutto e sfiduciato. È tremendo stare in attesa di una sua parola, ti giuro che si tratta solo di amicizia, ma col fatto che non mi scrive diventa il pensiero dominante. È un rapporto alla pari, ma alla pari non mi sento più quando lei mi ignora. Ogni volta mi sento rifiutato, disprezzato, però non le ho mai chiesto perché non mi rispondi. Deve essere un gesto spontaneo, non si può estorcere. E pensare che adesso c'è l'email, questa comunicazione istantanea. Mi immagino quanto doveva essere più tormentosa una corrispondenza mandata per posta. Cosa devo fare? Jacopo. No, primo, non giurare il falso che ti casca il naso. Cioè, ma quale amicizia? Tu sei preso del tutto e lei no. Non è un rapporto alla pari. Perché tu sei interessato a lei molto più che lei a te. Che devi fare? Scrivi meno, anzi non scrivere più. Sospendi questi bombardamenti epistolari che, a quanto ho capito, devono essere molto serrati. Cioè, non trattenerti, scrivi quante lettere ti pare, basta che non le spedisci, te le tieni per te, da parte, esprimiti, se no esplodi, però non la tormentare. Se questa ragazza di Cosenza volesse giocare con te, giocherebbe, e se invece ti risponde una volta su 10 è perché non ha niente da dirti e magari vuole garbatamente invitarti a diradare i tuoi messaggi. Io capisco il tuo senso di impotenza, perché il silenzio inquieta, il silenzio si percepisce sempre come una minaccia e comunque propone un enigma. Mi fai venire in mente un gran bel titolo di un libro di Gabriel García Márquez, Il colonel no tiene quien le scriba, ovvero nessuno scrive il colonnello. Però io non credo che la posta con la lettera di carta, la busta e il francobollo fosse peggio. Anzi, credo che per comunicazioni ansiose come la tua, l'email sia il mezzo più crudele. Io uso l'email con leggerezza, se è per comunicare un pensiero, magari raccontare un sogno appena fatto, che voglio condividere con un amico, e scrivo chi mi pare, quando mi pare. Però non mi aspetto risposta. Certo, se non faccio una domanda precisa, perché mi prendo anch'io la libertà certe volte di non rispondere. Le email sono come delle rondini che ti vengono a sbattere nella grondaia. Certe volte sei pronto a raccoglierle, altre no. Sì, adesso naturalmente non voglio fare la superiore, perché è ovvio che questo modo leggero e liberale di considerare l'email un messaggio nella bottiglia, che può essere accolto oppure no, indifferentemente, funziona quando non c'è di mezzo un amore oppure il lavoro. Perché anche l'Akhmatova lo diceva, questa poetessa così eterea, però diceva: ma per lavoro certe volte si soffre come per amore. Per te che sei innamorato perso, sicuramente l'email è un massacro. Una sera a cena stavo vicino a un amico che non toccava cibo, non parlava, era pallido, sempre più pallido, finché al primo bicchiere si accascia sulla sedia, collasso cardiaco. Arriva l'ambulanza, lo accompagno, passiamo la notte all'ospedale. Lui mi dice che si è sentito male perché la donna che ama non gli rispondeva all'email da settimane. Poi al mattino, tornando a casa, ha scoperto che la sera prima, esattamente al momento in cui si era sentito male, lei gli aveva risposto, ma così freddamente comunque che il collasso gli sarebbe venuto lo stesso. Ecco, ti dicevo, sbagli credendo che fosse meno tormentosa ai tempi della lettera portata dal postino. Anzi, era molto meglio, perché la velocità dell'email aumenta il dolore. Prima la lettera, fra andare e tornare, ci metteva 5-6 giorni. E quindi erano 5-6 giorni in cui c'era una franchigia rispetto all'attesa. L'accompagnavi col pensiero, alla partenza, nel viaggio, e potevi sperare per lunghi giorni che le tue parole fossero bene accolte. Con l'email, dopo mezz'ora, ti senti rifiutato, scartato. Pensi sempre peggio di te stesso, ti collochi sempre più in basso e mi par di vederti poi che ti metti a ripensare a quello che hai scritto, ogni riga ti sembra una stupidaggine imperdonabile e le tue parole cominciano a inseguirti come forconi infuocati. Ai tempi delle lettere, in caso come il tuo, poteva funzionare il metodo Roth, di cui abbiamo già parlato, ovvero ingannare la lettera. Nel libro Fuga senza fine di Joseph Roth, il protagonista, esule a Parigi, scrive alla donna amata lontana. Niente. E si tormenta in maniera indicibile, ogni sua ora gira attorno a questa attesa. Poi un giorno decide che ingannerà la lettera. Ovvero comincia a fare come se gli non importasse più niente. Non sta più in agguato all'orario in cui arriva il postino. Anzi, a quell'ora se ne va spensieratamente al bois o dove gli pare. Si rende libero dall'attesa, spavaldamente, almeno nei gesti. E funziona, perché dopo un po' di questa disciplina, nel suo alberghetto non arriva la lettera, ma lei, l'amata in persona. Oh, ecco un'occasione veramente rara. Qui al Faro è venuto Gianluca Nicoletti, che è il padre fondatore di questa trasmissione, che l'ha immaginata fin dall'inizio, prima che ci fosse, e me l'ha cucita addosso come i sarti cinesi le loro sacre palandrane. E è stata lei, Nicoletti, che mi ha spedito al Faro. Io l'ascolto da 20 anni, l'ascolto dai tempi di Golem, poi l'ho seguita a Radio 24 ed è stato lì che ho scoperto questa radio e non mi sono più mossa, devo dire, anche se sarà poco chic parlare bene della radio dell'obesità, ma insomma... Beh, non fa male comunque. Non fa male, no. da quando lei le ha spostato la trasmissione invece che alle 8:30 alle 10, io adesso faccio tutte le cose manuali, le faccendine, le cose per poterla ascoltare, questa sua voce da predicatore medievale, le cattiverie, le risate, i rovesciamenti di senso, insomma lei è la mia avanguardia. Io volevo sapere lei e la radio, perché vede, per esempio, qui al Faro sono piena di appunti anche di cose, lei va sempre a braccio, ci racconta il suo rapporto con la radio. Guardi, la cosa più giusta la disse la buonanima di mio padre quando tornavo a Perugia le prime volte che ero andato nella capitale a cercare fortuna. Ero uscito attraverso un inghippo schifosissimo, fingendomi nipote di uno zio cardinale che non esisteva, a fare il primo contratto con del la quale teneva poi la foto in ufficio. Sì, certo, ma era, mi sembra, un cardinale di Verona, mai visto. Però bastato quello, quando mi dissero ma lei deve farci capire chi è, perché piacqui il provinciale arrabbiato, spocchioso e tutto, in questa Roma terrazziera, tutti a scuola da Asor Rosa e tutti amici degli amici, era un po' il piacere di vedere Bertoldo alla corte del re, quindi si erano attizzati della mia esistenza, però non ero nessuno, era pieno di cellini, di persone raccomandatissime, e io, capita l'aria, da truffatore perugino, mi inventai lo zio arcivescovo, scrissi questa lettera di raccomandazione in cui dicevo questo nipote tanto bravo, mi feci un pacco di curricula inesistenti fatti da amici, c'era una radio privata, insomma mi costruì un passato di radiofonico consumato, non sapevo nemmeno cosa fosse un microfono. Beh, entrai alla RAI, cominciai a fare i primi contratti, poi fu anche assunto. Beh, mio padre, quando tornavo a Perugia le prime volte, cioè adesso perché hai imparato a mettere due parole in fila, chi ti credi d'essere? E me l'ha ripetuto per 20 anni, 30 anni. Quindi mi sono reso conto che veniva considerato nella sua mente reale, giusta, legata alla terra e concreta, il parlare non equiparabile a un lavoro dignitoso. Parla, può essere che lo pagano per dire cazzate alla radio. E questa cosa lo mandava in bestia, non sopportava il fatto che io riuscissi comunque a mantenermi, essere autonomo, staccarmi dalla piovra familiare, semplicemente parlando. Non è un mestiere parlare, parlare bisogna zappare, fare gli affari, vendere le vacche, costruire le case, questo è lavorare, non è lavorare parlare. Invece mi sono reso conto che la natura aveva dotato di una qualità, come quelli che si accorgono di essere rabdomanti e trovano l'acqua e scoprono le sorgenti, diciamo, come ho fatto, o quelli che impongono le mani e guariscono. Io posso parlare facendo altre cose. In questo momento parlo con lei, sto pensando a quello che devo fare dopo. Va benissimo, vanno per conto loro le parole, evidentemente c'è un'area del mio cervello che mi fornisce parole a volontà, una riserva di parole inesauribile, parlo. Questa cosa funziona, visto finché mi prendono a fare la radio, evidentemente ancora qualcuno serve. Cos'è la radio per me? La radio per me è questo fantastico gioco di nascondimento. La rubai a lei questa metafora, me la citò una volta, mi ricordo tanti anni fa quando ci conoscemmo, qua del Mago di Oz. Il Mago di Oz è un omettino. Un omettino anche ridicolo, vestito ridicolo. Ma è riuscito a tenere sotto scacco un mondo intero facendo il Mago di Oz. Sta dentro una scatola che fa un vocione, fumi, un grande idolo, sono il potente Mago di Oz. Quando il cagnolino scosta la tendina si vede c'è un ometto che muove leve e pulegge. Ecco, io sono l'ometto dentro la macchina del Mago di Oz. E questo lo trovo fantastico perché mi permette di essere ometto. Ora, io ho una fama terribile, una leggenda negra gira su di me che in altre parti della mia vita mi causò anche situazioni piuttosto incresciose. Tutti pensano che io viva in un castello, circondato da fumi d'incenso, con delle odalische che mi fanno vento, fra balsami profumati, vasche, eunuchi che si prostrano al mio passaggio e vestito di abiti di seta, vada lì e scelga, vieni tu, vieni tu, vieni tu, beva tequila e margarita, ma no, quello lo bevo davvero, e faccio una vita da satrapo fra il D'Annunziano e il Don Giovanni. Come ho iniziato la mattina? Stamattina mi chiama mia moglie, sul far delle 8 si è atturato il lavello della cucina. È un incubo, quando si attura il lavello della cucina hanno fatto una ristrutturazione fatta male, ci sono 10 metri di tubo da sturare. Devo mettermi in mutande perché bisogna mettere le mani in una materia così schifosa, non le dico cosa c'è dentro i lavelli dopo 3 mesi che non si stura. Con un sondino a molla infilarlo in questi 20 metri di tubo mentre schizza fuori di tutto, girare con una specie di manovella, tirare fuori il blocco condensato di calcare, rimasuglio tritaticcio di lavapiatti coperto di strame, poi andarmi a fare la doccia e correre alla prima riunione dove essere tutto bello e profumato. Ecco, io ho una vita da banalissimo umarel, da omino di casa, faccio la spesa, accudisco i figli, pulisco per terra, faccio le lavatrici e devo mascherare questa ignominia che mi fa anche male, perché io in realtà vorrei essere quello che tutti pensano che sia, e poi fare le trasmissioni, dire care ragazze, oggi vi parliamo delle fessure che si aprono nel cammino di ogni uomo in cui è bello buttarsi. Tutti immaginano che abbia uno stuolo diamanti, fosse vero, magari, Alberti, quanto sarei contento, sarebbero tutti più contenti intorno a me. Invece torno a casa stasera, dovrò fare l'ovetto fritto ai figli, dovrò metterli a letto e poi finalmente scrivere quelle 10 righe che mi permettono di vivere. Però no, vuol sempre passare per umarelle. In verità, malgrado se stesso, poi ha fatto delle cose molto serie. Io mi ricordo per esempio nel 99, sono anche quando... un bel figo fisicamente. Beh, con quella barbetta, devo dire, sembra veramente un prete cattivo. Mi ricordo quando appunto nel 99 ci fu la famosa aggressione all'ex Jugoslavia, che chiamavano guerra, ed era molto difficile avere delle informazioni. Mi ricordo Santoro andò sul ponte di Belgrado, ma insomma era rarissimo. E lei dava informazioni di prima mano, e molto rare, perché aveva rispolverato la sua conoscenza di radioamatore. E quindi si era messo in contatto con i radioamatori serbi che le davano... Sì, avevo anche un collaboratore molto bravo, si chiamava Andrea Bornino, ancora penso sia vivo, che mi dette proprio gli strumenti tecnici, ma sai, io sono sempre stato appassionato di tecnologia, proprio perché sono numarelle, cioè gli attrezzi a casa, se azzoppa una sedia io la incollo, se si attura un lavandino lo sturo, sempre la mia cassetta agli attrezzi, la tecnologia mi affascina. E quindi mettemmo insieme uno strumento legato a internet, che ancora nessuno sapeva cosa fosse in quegli anni, e legato alla vecchia e antica radio dei radioamatori, avevamo informazioni, intercettavamo i bombardieri americani che andavano a bombardare, bellissimo, gli italiani che andavano a buttare le bombe, tutti dicevano che era una grande passeggiata, e noi e la gente non sapeva come facesse, una cosa semplicissima. Oggi non si può più fare, più difficile, internet lo conoscono tutti. Allora mi ricordo, venivano le truppe del TG1 alla mia redazione, dicevano: dov'è internet? Con le telecamere ci fai filmare internet? Dico: scusa, accendi un computer nella tua redazione. In quegli anni era quello il livello di il digital divide in Italia, e poi naturalmente siamo invecchiati facendo queste cose e ancora ci giochiamo. La guardiana del faro. Leggerò dei brani del poema Uomo di Vladimir Majakovskij. È scritto tra il 1916 e il 17, lui aveva circa 22 anni ed era appena cominciato questo amore forsennato per Lili Brick, la quale però era legata a suo marito. A un certo punto vanno ad abitare tutti e tre insieme, ma lui sarà sempre gelosissimo. Ecco, e lui la incontra, dal poema si evince che lei gli aveva detto di essere da un'altra parte, e invece lui la incontra proprio in città. Chi vedo? Sei tu? Bugiarda! Perché corri? Fermati, conosco gioie più dolci. Fermati, è già passata. Eccolo, laggiù. Lui che domina le teste. E immagino che sia questo Osip Brick, questo pezzo di mascalzone di suo marito, questo marito pelato, spia della polizia segreta, che si dilettava di assistere alle torture. Ecco come lo descrive Majakovskij. Il suo cranio brilla, da poterlo calzare come una scarpa, e ha tutto da splendore. Ci sono solo, sull'ultima falange dell'anulare, sotto al brillante, tre piccoli peli irti. La vedo avvicinarsi, si china per baciargli la mano. Le sue labbra bisbigliano ai piccoli peli. Chiamano uno piccolo flauto, l'altro piccola nube, il terzo con un nome splendido, ignoto, che ho appena creato. Ma lui è disperato per amore. Come in quasi tutta la sua opera, promette che si suiciderà. E sarà di parola. All'età di 36 anni si sparerà un colpo, e qui già affiora questa cosa. Il cuore brama il revolver, la gola sogna il rasoio. Finché si rivolge al farmacista per suicidarsi. Suona il campanello. Farmacista! Farmacista! C'è un rimedio per la gelosia? Nelle piane del cielo sconfinato, nel delirio del Sahara, c'è forse un rifugio per i gelosi? I tuoi flaconi racchiudono tanti misteri. Tu conosci le giustizie supreme. Farmacista, lasciami lanciare senza dolore la mia anima nello spazio immenso. Mi tende qualcosa. Un teschio. Veleno. Due ossa in croce. E per me forse? Ma io sono immortale, non sono un cliente come gli altri. Oh, I bury my head in my hands, I bury my heart in the sand. I was cut like you're in John. I was ferociously put upon until it was clear. I should not keep on, I just creep on, creeping on. Yes, I will, I'll not keep. Beve il veleno ed ecco che si leva in volo. Dei curiosi si affacciano alle finestre, i capelli si rizzano ed un tratto io flutto leggero per la bottega. Il soffitto s'apre da solo, come in un quadro di Chagall lui se ne va, a spasso per il cielo. Grida, baccano, sta sospeso sopra la casa. Cantate ora, cantate il nuovo demone in veste americana, in scarpe gialle verniciate. Ed ecco che Majakovskij arriva in cielo. Mi guardo intorno. E così? Questa superficie ben lisciata è il tanto vantato cielo? Vedremo, vedremo. All'inizio mi irritai. Non c'era un angolo per se stessi, né il tè, né giornali per il tè. Poi presi le abitudini dei cieli. Andavo con gli altri a vedere se erano arrivati morti. Ah, siete voi! Li abbracciavo con gioia. Buongiorno, Vladimir Vladimirovich. Buongiorno, Abraham Vasilevich. Allora, come siete morto? Bene, comodamente. Tutto questo mi piacque. Non lasciavo più l'entrata. E se dei conoscenti da morti si presentavano, li accompagnavo, mostrando loro, nella ribalta delle costellazioni, le quinte grandiose dei mondi. Il deposito centrale di tutti i raggi possibili. il posto dove gettare le stelle bruciate, un vecchio disegno, non si sa di chi, il primo progetto mancato di balena. Da qui precipita rombando la terribile valanga degli anni. Non faccio il conto delle settimane. Noi, racchiusi nelle cornici dei tempi, non dividiamo l'amore in giorni. Non cambiamo i nomi amati. Sopra di me rotolavano, bagnandomi di carezze, i mari dell'eternità. Chi osa rombare in me come un cuore? La mia nostalgia cresce, si fa sempre più acuta. Che una nube si accenda più lontano, sempre mi par di vedere l'avvicinarsi del profilo terrestre. Mio padre è accanto, sempre lo stesso. E solo un po' più duro d'orecchi. La sua uniforme di guardaboschi è un poco lissa sul gomito. Mi irrita. Ha gli occhi piantati a terra. Quale pensiero domina il vecchio? Egli dice piano: nel Caucaso forse è primavera. Il branco incorporeo spande anch'esso le sue malinconie, ma il furore del teppista prorompe. Papà, mi annoio, papà. Seguitemi, non avete neanche piedi. Stufo del cielo, poi Majakovskij finisce per buttarsi in volo verso la terra. Delle voci. Guardate, deve essere un imbianchino caduto dal tetto. Ha avuto fortuna. Vado in giro. Un ponte fiabesco. Ci salgo e dall'alto resto a guardare. Stavo in piedi, ricordo. C'era questo splendore e questo, allora, si chiamava Nieva. Sopra una casa, a rischio di cadere, ti vedo camminare fra i raggi, riunirli in fasci. Mi protendo, ma sei fuggita sotto il mio naso, come una nuvola. Sento quasi il profumo della tua pelle, quasi il respiro, quasi la voce. Mi sembra che un fantasma riviva all'improvviso. A questo punto lui è arrivato dove abitava prima la sua amata col suo orribile marito. Passante, e questa via Zhukovskij. Mi guarda, come un bimbo guarda uno scheletro, con gli occhi spalancati. Sono 1000 anni che si chiama via Majakovskij. Si è sparato qui, davanti alla porta dell'amata. Chi? Io mi sono sparato. Che storie si possono inventare? Volo verso la finestra, un'abitudine dei cieli. La finestra è chiusa da una tenda. Dietro la seta vedo che la stanza è sempre la stessa. Hai attraversato 1000 anni e sei ancora giovane. Stai distesa, i capelli azzurri come la luna. Ehi, ma la luna è la nuda calvizie di lui. Penetro furtivo. Buongiorno. S'accende la luce. Chi siete? Sono Nikolaev, ingegnere, e questa è casa mia. E voi chi siete? Perché importunate mia moglie? La stanza di un altro. Il mattino si raffredda. Una donna sconosciuta è là, completamente nuda. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, mi sento disperato, ma la mia disperazione è profonda, atroce, devastante, come quella di Rimbaud in Un saison en fer. Ho nostalgia di tutto, anche delle cose non fatte, dei luoghi non visti, come scrive Pessoa. Una relazione durata 5 anni si è conclusa per colpa mia. Alessandra aveva 2 figli e io non ho avuto il coraggio di fare delle scelte. Ed ora che è finita, io sono devastato dal dolore. Ogni cosa mi ricorda di lei, mi metto a piangere come un bambino. Ho venduto casa e mi sono ritirato a Trevignano Romano. Ho anche affittato una bottega dove ho dipinto forse i miei dipinti più belli, quelli dedicati alle sinfonie di Mahler, pur se con la morte nell'anima. In quella casa tutto è stato pensato insieme. Tuttavia questa mia scelta ha logorato il rapporto. Non solo non ho progettato un futuro con lei e i suoi 2 figli, ma mi sono allontanato da Roma e da lei. Verso la fine del rapporto era subentrata un po' di stanchezza, è vero. Io ho guardato e desiderato spesso altre donne. Se l'amore fisico è scemato, l'affetto è però cresciuto enormemente. Lei, per me, era molto di più che una compagna. Era parte di me, era la mia famiglia. Ciò nonostante non ho mai accettato pienamente i suoi figli. Mi disturbava forse che avessero un padre. E non le ho mai proposto di vivere insieme. Non so come spiegarmi. Lei era la bombola d'ossigeno che mi teneva in vita. Era il sogno, la speranza. Era tutto. È come se l'avessi abbandonata in mezzo a una strada. Anche se è stata lei a lasciarmi, è come se l'avessi fatto io. Ho provato a scriverle. Mi ha risposto quasi controvoglia, con freddezza, dicendomi che ormai era tardi per tutto e che lei aveva già un'altra persona. Lei non mi scrive e neanche mi risponde più. E questa cosa mi uccide. Una tua sola parola di conforto potrebbe aiutarmi. Vorrei poter sorridere alla vita, poter essere felice, perché credo di non esserci mai riuscito fino ad oggi. E ho 51 anni. Mi chiedo se ce la farà a ricominciare. Cara Barbara, grazie. Un saluto affettuosissimo. Continuerò a seguirti alla radio. Mario Corinthios. Tu, Mario, volevi tutto e volevi dare quel contagocce. Anche se lei l'amavi. Ah, ecco, scusa se abbiamo tagliato la lettera e si è persa una cosa molto graziosa. Tu scrivevi: per me era la piccola fiammiferaia. Mi piaceva coprirla di regali. Lei era il tuo amatissimo giocattolo. Come poi sempre l'amore, eh? Ma i giocattoli non possono avere figli. Tu ti sei allontanato dalla città e ti sei fatto una casina da egoista di 50 metri quadri. Come dire, non vi venisse in mente di venirci in tre. Ti sei fatto una casina désobligeante, disobbligante, come nel film di Ettore Scola, La Nuit de Varennes, che racconta la fuga non riuscita di Luigi XVI con la famiglia. E a un certo punto passa un grande personaggio del tempo, Giacomo Casanova, Marcello Mastroianni. Casanova si è fatto un calessino monoposto, appunto, che si chiama La désobligeante, perché disobbliga così nessuno gli chiederà mai un passaggio. Però, anche se a volte a quel piede ci zoppica un po', cioè d'un tratto divento moralista, stavolta no, non ti dirò sei un egoista, ti sta bene, per questo ti è andata male. Ah, perché anzi sei atipico, sei un egoista sfortunato, perché di solito gli egoisti acchiappano moltissimo, sono adorati dalle donne. Tu non sai quante ne conosco, che sacrificano l'intera vita a un egoista fottuto senza ricevere al massimo un calcio ogni tanto, a volte manco quello. E poi egoista piano. Non è mica facile. Se uno ama una donna, ama pure i suoi figli. Cioè, non è detto. A me, devo dire la verità, quando ho amato anche una zia di terzo grado, pure il tabaccaio della persona per me era una creatura divina. E mi ricordo quando la prima volta che ho visto mia suocera, con quanto sacro stupore la guardavo. La madre di lui, l'origine di tutto, era una vecchiaccia. Però possedeva i suoi primi 20 anni, sapeva di lui tutto quello che io non avrei saputo mai. Però mica ci ho vissuto insieme. Adesso matrimoni allargati, formule, parole, poi se entri nelle cose non è mica facile. Due figli, due personalità, due rivali potenziali che comunque in fondo all'animo ti vedono come un usurpatore, e in più nemmeno poterli fare propri perché c'è un padre, ed è una misura molto difficile da trovare. Bisogna trattarli affettuosamente, ma non troppo, guai se esageri, non ti puoi sovrapporre al padre. E poi, sai, o c'è uno slancio spontaneo e reciproco, o averli come testimoni di un grande amore non è l'ideale. Sei stato sincero? Tu, fra l'altro, sei un artista e vuoi stare solo. E difatti, da quando ti sei ritirato, soffri, piangi, ma lavori benissimo. Ti disperi, ma crei come un matto. Sai che c'è, Mario? Io credo che sia meglio piangerla che detestarla. Prova a immaginare se invece, per compiacerla, avessi fatto il passo più lungo della gamba e foste andate a vivere tutti insieme. Pensa come la odieresti adesso. Questo rimpiangerla ti nutre. Goditelo sto rimpianto. L'amore è un triste, grande affare per l'arte. Approfittane lì, nella tua tana sul lago. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. 36 anni, sposata, con figlio. Mio marito mi vuole bene, e anch'io a lui. Però è arrivato questo ragazzo di 9 anni più giovane di me, e da un anno ci vediamo di nascosto. Ho provato a lasciarlo, non ci riesco, lui non vuole. Tutte queste bugie, non ne posso più, non c'è un futuro per noi. Mi sono venuti dei grandi rimorsi per lui, che deve pensare a farsi un avvenire. Non voglio sacrificarlo. Dopo l'accecamento della passione, adesso mi preoccupo per la sua sorte. Non voglio che rovini la sua giovinezza per me. Io ricevo tante lettere di sposate, sposati, fidanzate, fidanzati, che si preoccupano sempre degli amanti, cioè di non rovinare la loro vita. Ma io devo dirti la verità, questi rimorsi vengono quando la storia è già un pochino consumata. Perché all'inizio mai ci si preoccupa del futuro. Si è troppo occupati con l'istante. Dopo un po', quando la passione si assottiglia, chi ha famiglia, come te, appagata la curiosità, vissuta la trasgressione, ha voglia di tirarsi indietro. E allora comincia a dire all'altro: ci dobbiamo lasciare, devi pensare a te. Cosa fare? Ma come tutti tu non farai, ma sarai fatta dai tuoi impulsi e dai suoi. Mi chiedi un consiglio, ma scusa, se io ti rispondessi lascialo, tu lo lasceresti? E se sei stufa io ti rispondessi rimani insieme, che ci resteresti? Ma spero di no, spero che se ti deciderai, magari lasciarlo sarà per sazietà o forse per generosità, ma anche verso te stessa, perché il doppio binario marito-amante è difficile e appena la passione si appanna, tutto quell'affanno, diciamolo, non vale più la pena. Poco tempo fa ho parlato di un poeta contemporaneo, sconosciuto quanto importante, che si chiama Umberto Polignano. Chi fosse curioso può riascoltare in broadcast la puntata del 14 agosto. Queste poesie il Polignano mi aveva proibito di leggerle e io le ho lette lo stesso, per fargli un dispetto. Oggi ne leggerò altre. Se vi volete iscrivere al club Facciamo i dispetti a Polignano, magari leggetele e se volete mandateci un commento. Il primo iscritto al club, oltre a me, Gloria e Chiappini, automaticamente è Maurizio Bordoni. Maurizio Bordoni è un libraio di San Pietro Terme, un raffinato libraio che tiene libri fuori catalogo e dopo che ne ha sentito parlare dal Faro ha ordinato 25 copie del suo libro. Io voglio ringraziare il signor Bordoni perché è la prima volta che qualcuno ci dà retta. Qualcuno pensa che Polignano fa l'orgoglioso, però sotto sotto è contentissimo che si parli di lui. Io non sono tanto d'accordo, ma sai che gliene importa che vengano lette dal Faro? Perché un narciso cosmico come lui, o dalla cima dell'Empire State Building, o niente. Allora vorrei leggere La caduta dal canzoniere dell'amore dell'inferno di Umberto Polignano. Io così bene stavo tra le stelle, poi, così come in un sasso, sono inciampato nella vita. Ma per la vita, tu, amore, io, mai rimpianzi quel beato cielo. Fummo nel sole presi da un frastuono, già vita era ricordo. Amore il pianto, un solo amore, dissero gli alati. Sì, un solo amore, rispondemmo in canto. Era la vita con le sue bellezze. Per la di noi tristezza piove un anno, tanto che mare fece mare terra, tanto che il sole si chiamò miraggio. L'eternità passammo a raccontare agli angeli curiosi, a noi a braccetto, come potemmo morire d'un bacio. Noi uomini, laggiù, prede dei venti. Questo noi siamo stati, amanti al tempo. Eterni certo no, felici tanto. Volete fare a cambio, tristi dei? Infanzia campagnola. Solo io ero. Senza me terravo. Mai tanto bella mi sembrò la vita. Splendeva il sole, ero innamorato. Il più bel giorno da che sono nato. Mi dia un biglietto per il primo cielo. L'amore qua nel mondo non è vero. Hai pensato all'amore? Tu che hai gettato amore tra le spine, andrai all'inferno e sarai dolente. L'angelico e il maligno in te si danno il cambio come sentinelle a notte, tra la vita e la morte, un santissimo amore. Dal Vangelo secondo me, ridi. Bacia, il resto non è. Il cuore batte, il cuore è una puttana. Se mi amasse, darei la vita per un filo d'erba. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Egregia signora Alberti, io la conoscevo come presenzialista televisiva e come tale la disistimavo a priori, così come i luminari della psicologia e della criminologia che inzuppano il pane nel sangue della cronaca nera, nei pomeriggi Rai 7 e da Bruno Vespa. Da un po' di tempo la sento a Radio 24. Lei, signor Alberti, è una donna intelligente e perspicace, anche se abusa di Rimmel, o come si chiama adesso. Di domenica mattina svela meccanismi di cui io stesso sono vittima, per cui l'ascolto affascinato, ma poi cambio canale. Lei è il grillo di Pinocchio e io sono Pinocchio. Egidio Moretti. Beh, meno male Egidio allora che invece di appiccicarmi al muro con una martellata mi ha scritto e la ringrazio. Guardi, è sempre una gran gioia vedere uno capace di cambiare idea, specialmente su di noi, e addirittura darsi la pena di scrivermi per farmelo sapere. E più ancora si è meravigliata di me Gloria Guerrera. Dice che conosce un sacco di maschi che pensano di avere sempre ragione e che quindi lei è veramente da esaltare e da ringraziare. Però, mi perdoni, anche lei, come il lettore che aveva scritto settimane fa, un po' esagera. Queste lettere mi fanno piacere, però mi turbano. Scopro di essere antipaticissima, perché anche lei, come l'altro, prima di assolvermi, mi dice delle cose tremende. Ora io vorrei sommessamente osservare che però, per quanto diverse possano essere la persona che lei vede in TV e quella che sente alla radio, siamo strettamente imparentate. Lei non tiene conto della enorme differenza che c'è nei due mezzi, fra la televisione e la radio. In TV vedi un'immagine. Qui sono una voce e comunque un'altra cosa. Ora, non è che quando vado in TV il dottor Jekyll diventa di colpo Mr. Hyde e mi faccio spuntare i peli dal naso, gli unghioni e divento una conformista schifosa. Ho sempre detto quello che sentivo e quello che pensavo. Magari lo avrò detto male, sicuramente. Non è il mio mezzo quello. Però non ho mai retto il sacco alla stupidità, come chi dice qualsiasi cosa pur di apparire. E mai, e qui si sbaglia proprio, mai ho accettato di commentare un delitto. Mai. Perché so che quelle trasmissioni sono pubblicità dell'omicidio. Oh, adesso che ho fatto questo nobile sforzo, ne faccia un altro. E faccia i conti, per favore, anche con la sua superficialità mediatica. Perché lei mi ha vista, ma non mi ha ascoltata. Se no, qualche somiglianza l'avrebbe trovata. Lei ha aperto la TV, ha visto una vecchia truccata e ha fatto caso al rimmel, non ha ascoltato. Se lei non fosse più televisivo di me, magari un po' di curiosità, ma se avesse letto un mio rigo, non so, sul libro, su un giornale, dovunque, ci avrebbe trovato dentro tante cose che ho detto qui. Perché io qui, per lo più, leggo i miei scritti, scritti nel corso di una vita, non da quando lei mi ascolta alla radio. Io lo so che ho una faccia strana, inquietante, non simpatica. Sono un po' disegnata come una strega, cioè naso adunco, poi tutte queste rughe che oggi fa pure impressione perché mette un po' a disagio perché non siamo più abituati, no? Una che dimostra la sua età, siamo abituati a quelle facce lisce, a quell'età ambigua, orrenda, indefinibile tra i 40 e i 70. E questi contenuti non è che sono sbucati fuori dal nulla. Non ho aspettato di avere i capelli bianchi per tirar fuori la mia personalità. Sarei un tale campione di schizofrenia che sarei un fenomeno, mi studierebbero all'università. E invece sono soltanto un grillo. Ah, post scriptum, senti, no, Egidio, ti volevo dire, cioè, in una parola, io lo so che ci guadagno a non farmi vedere. E quindi non mi resta che rallegrarmi di questa opportunità che è questa trasmissione, che è la mia gioia, la mia libertà, il mio esercizio d'amore e che è stata immaginata esattamente come adesso da Gianluca Nicoletti, cui sono molto grata anche perché lui ha capito che dovevamo stare insieme io e Gloria Guerrera, perché sapeva benissimo che ci saremmo capite al primo sguardo e magari al secondo, come poi è stato. Mi ha messo a fare la traversata con una persona che la traversata la sapeva fare. Come Guido io vorrei che tu e Gloria e Dio. Gloria è una che va al lavoro in bicicletta perché dice che la bicicletta ci apparenta agli angeli e la macchina alla bestia. E con lei non ci possono essere equivoci perché è spaventosamente, nudamente, sfrontatamente sincera. Legge più libri di un amanuense e ogni tanto mi ripassa. E in tutto quello che ascoltate al Faro c'è il suo ingegno, c'è il suo gusto musicale. E poi fa ridere. L'umorismo è una forma di bontà, anche quando è spietato. Ah, poi, ultima cosa. È bella, specie, quando si veste da piccolo gangster, oppure da ragazza degli anni 20 e 30, ma anche dell'Ottocento, purché sia in un'altra epoca. Qui, capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal Faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.